Raffaella, come la va? Molto bene, grazie. Lei? Bene, siamo venuti a portare il tapiro perché abbiamo visto che le hanno dato gli spagnoli un'onorificenza. Questo mi ha fatto molto piacere, è come fosse un, non so, cavaliere del lavoro, quelle cose. Ma che meraviglia! E ti spiego, siccome gli anni passano, la traiettoria è stata lunga e quindi è un premio che mi fa particolarmente piacere, giusto? Ma caspita! Allora, ho dato un'intervista a un giornalista e io ho detto che la Spagna riconosce il mio lavoro, mentre per le istituzioni italiane sono un milite ignoto. Evidentemente non si sono accorte che io ho lavorato tantissimo in molte parti del mondo. Gli italiani non si sono accorti di lei, voglio dire, non le hanno dato un premio, ma dico, madonna, neanche un premio. Premio di più. Un'onorificenza alla sora Carrà, signori Mattarella, ma come si fa? Ecco, abbiamo voluto iniziare così, facendo dire a Valerio Staffelli di Striscia la Notizia quello che noi sosteniamo da sempre e che peraltro abbiamo avuto modo di sottolineare molte volte nelle nostre puntate, parlando di personaggi italiani dello spettacolo, famosi da decenni, famosissimi, e che magari sono stati un po' dimenticati dalle istituzioni. Mi viene in mente Rita Pavone, mi viene in mente Toto Cutugno, personaggi che all'estero sono delle leggende, sono importantissimi, e qua in Italia, forse perché ci siamo abituati alla loro presenza, vengono magari considerati meno, almeno dal punto di vista mediatico, di eroi di una stagione. Ecco, questo vale moltissimo nel caso della nostra protagonista di oggi, Raffaella Carrà. Il re di Spagna Felipe VI, che il 18 ottobre 2018 le attribuisce la massima onorificenza del suo paese, dama all'ordine del merito civile. Lei forse è il personaggio femminile italiano più amato, sicuramente il più longevo a livello di carriera, non solo in Italia, anzi soprattutto in molti paesi del mondo, quelli in lingua spagnola per esempio. In Italia, come ha detto lei stessa spiritosamente, lei è come il milite ignoto. Questo non fa molto onore alle nostre istituzioni. E noi oggi rendiamo omaggio a Raffaella, la showwoman, cantante, ballerina, attrice, produttrice, autrice televisiva italiana più famosa nel mondo per distacco. È presente ininterrottamente nei palinsesti televisivi dagli anni 60 a oggi, è un'icona della musica, dell'intrattenimento, la regina della televisione italiana e ha al suo attivo una serie infinita di record, 700 pubblicazioni discografiche, 50 milioni di dischi venduti in 36 paesi del mondo, 60 programmi televisivi, 10 abbinati alla Lotteria Italia, la mitica Lotteria Italia. Insomma, un'artista completa che ha scritto una delle pagine più lunghe e significative, che sta scrivendo ancora pagine importanti nella storia dello spettacolo del nostro paese. Questa era una delle sue canzoni di maggior successo, Tanti auguri, e sigla di uno dei tanti varietà del sabato sera condotto da Raffaella su Rai 1. Si chiamava Ma che sera, stiamo parlando del 1978. È un brano senza tempo che continua a essere ascoltatissimo, il suo ironico verso, come bello far l'amore da Trieste in giù, insomma, è entrato nell'immaginario collettivo. Il testo di questa canzone è di un altro grande, Gianni Boncompagni, scritto con un personaggio del quale un giorno parleremo, Daniele Pace, che dagli Squallor alla canzone d'autore, insomma, ha fatto cose veramente diverse nella musica italiana, personaggio interessante. Boncompagni è stato il compagno di Raffaella Carrà per oltre 10 anni, ha scritto molti dei suoi successi. Chissà se si era immaginato che poi questa sua canzone avrebbe venduto milioni di dischi in tutto il mondo. Ma andiamo con ordine, raccontiamo la vita, la straordinaria carriera di Raffaella Maria Roberta Pelloni, questo è il suo vero nome. Nasce a Bologna, non bisognerebbe dire l'età delle signore, diciamo il 18 giugno di un anno a cavallo tra la guerra e la fine della guerra, via. E i suoi genitori si separano quando lei ha 2 anni, cresce con la mamma Angela Iris, che ha un bar a Bellaria in provincia di Rimini, con la nonna Andreina, nonna romagnola. Ecco perché molti erroneamente scrivono che Raffaella è nata a Bellaria, insomma viene più accostata alla Romagna che non a Bologna. Ascoltate cosa dice lei in un'intervista di Bonolis. L'ombelico. C'è ombelico e ombelico. Il mio è fatto a tortellino. Mia madre, quando mi fece a Bologna, quando sono nata, pensa a te, questa che stava con tutti i dolori, parto naturale, qua là, si preoccupò di dire al dottore che appunto mi stava facendo nascere: mi raccomando, le faccio l'ombelico come un tortellino. Ma mai al mondo lei pensava che sarebbe rimasto poi, insomma, un pezzettino di storia della televisione. Un pezzettino, un pezzo di storia formidabile, l'ombelico tuo. Beh, insomma. Ma questo perché sei nata a Bologna, era tortellino, se nascevi a Roma che era bucatino. Cioè, come te lo facevano l'ombelico? E che ne so io? Come si fa l'ombelico? Come fanno a fare l'ombelico a tortellino? No, lo fanno tagliando il cordone ombelicale in un certo modo che venga piccolino interno. Tortellino perché è piccolo, tutto pieno di rughettini. Fammi vedere il tuo. È a lasagna. Ah, è a lasagna. E così la piccola Raffaella col suo ombelico a tortellino, che non era ancora preda dell'immaginario degli italiani degli anni 60, cresce nel bar della mamma Iris. È un particolare determinante perché a quel tempo la televisione è appena arrivata in Italia, in realtà ce l'hanno solo i bar nei momenti clou, come poteva essere l'Ascia Raddoppia negli anni 50 o il Rischiatutto negli anni 60 o le grandi partite di pallone o il Festival di Sanremo. Nei momenti clou tutti si radunano al bar a guardare la televisione insieme, che era anche, insomma, un modo bello per socializzare. Insomma, lei però, a differenza della maggioranza degli altri bambini, la televisione ce l'ha. Si appassiona per esempio a un programma mitico di quegli anni, Il Musichiere, condotto da Mario Riva, ne abbiamo parlato. Impara a memoria tutte le canzoni più famose dell'epoca. Poi, quando lei ha 8 anni, la famiglia si trasferisce a Roma e lei entra all'Accademia Nazionale di Danza. L'anno dopo debutta nel mondo dello spettacolo. Siamo nel 52, lei ha 9 anni. Oh, allora mi sono tradito, insomma, vi ho detto l'anno di nascita, beh, pazienza. Siamo nel 52, questa bambina partecipa al film di Mario Bonnard, Tormento del passato. È un classico melodramma strappalacrime di quegli anni. Lei interpreta il ruolo di Graziella, la figlia della protagonista. Come balla bene. Me lo compri, papà? Beh, un'altra volta, oggi abbiamo già fatto spese. Anzi, andiamo alla cassa a pagare. Papà. Graziella, ormai sei una signorina, basta con i giocattoli. Ma guardalo come balla bene. Ecco, sei stancato, vedi? Non balla più. La recitazione le piace molto, sembrerebbe essere la sua strada. Si iscrive al famoso Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, si diploma nel 60, quindi giovanissimo, ormai i conti li avete fatti. Insomma, lavora molto in questo periodo. E in tutta la sua carriera lei reciterà in una 30 di film e in una 10 di sceneggiati televisivi, anche se poi, insomma, lo sappiamo, la grande popolarità le arriverà per la sua carriera televisiva. E tra le interpretazioni di Raffaella ci sono anche dei film di un certo impegno, per esempio I compagni di Monicelli del 63, Il colonnello von Ryan del 65, produzione statunitense con, attenzione, Frank Sinatra. Si è parlato di un flirt, non si sa se reale o costruito. Sta di fatto che lei ha più volte raccontato che Sinatra, che allora era cinquantenne, in quel periodo era single, aveva voglia di trovare una compagna. Lei però aveva solo 22 anni, non era molto propensa, insomma, a accompagnarsi a un uomo, soprattutto per quegli anni, così più in là negli anni rispetto a lei. In tutti i casi, insomma, la storia con, diciamo, l'affinità, ecco, col grande Frank sicuramente ha avuto un grande impatto, anche ha favorito in quel momento la popolarità di Raffaella. E proprio in quel periodo lei adotta lo pseudonimo di Carraglia, lo suggerisce il regista, il sceneggiatore Dante Guardamagna, che era appassionato di pittura, che accosta il suo vero nome, Raffaella, che gli ricorda Raffaello Sanzio, al cognome del pittore Carlo Carrà. Nel frattempo lei debutta in televisione, valletta di Lelio Luttazzi, nel programma Il paroliere, questo sconosciuto. La sua carriera come attrice in quel momento non sta decollando come vorrebbe, e in televisione invece piace, ha avuto successo, si concentra in qualche modo sulla sua carriera di presentatrice, che allora, insomma, voleva dire saper cantare, saper ballare, sapersi muovere, saper parlare, la soubrette, ecco, era un insieme di cose, bisognava sapere fare tanto per presentare un programma in quell'Italia. Quello è il suo primo colpo d'ala, cioè capire la strada giusta da seguire, non intestardirsi dove magari non avrebbe trovato successo, ma prepararsi per ogni evenienza, cioè sapere fare tante cose. E arriviamo alla stagione 69-70, c'è uno spettacolo particolare, Io, Agata e tu, con Nino Taranto e Nino Ferrer uniti dal fatto, due grandi artisti, Nino Taranto aveva portato a successo questa canzone Agata, rilanciata poi da Nino Ferrer, grande artista francese, molto amico dell'Italia, diciamo. Ecco, lei lì lancia un nuovo stile di showgirl, è energica, è moderna, sa fare tante cose, come dicevamo prima, è simpatica, piace. Pochi mesi dopo, arriviamo all'autunno del 70, c'è Canzonissima. Canzonissima, insomma, in quegli anni era, assieme al Festival di Sanremo, il centro della musica. C'erano cantanti che andavano solo a Canzonissima e non a Sanremo, per esempio Gianni Morandi o Rita Pavone, ecco, che snobbavano il festival perché un grande lancio per un personaggio poteva essere Canzonissima. E infatti lei esplode insieme a Corrado in tutta la sua potenza nella sigla iniziale del programma. È una canzone mitica, ma che musica maestro, lei canta, balla e mostra per la prima volta nella storia della televisione l'ombelico. Diventa un vero e proprio fenomeno di costume di cui tutti parlano, e bisognerebbe contestualizzare la vicenda a quegli anni. Mostrare l'ombelico in televisione è una novità sconvolgente. Ci ricordiamo che pochi anni prima alle gemelle Kessler erano state messe delle calze spessissime affinché le loro chilometriche gambe, insomma, non turbassero troppo l'Italia. Ecco, stavolta arriva l'ombelico davanti a milioni di telespettatori, è una cosa che non passa inosservata, anzi va detto però che Raffaella forse è proprio lì il segreto del suo successo. Lei è una donna che non dà scandalo, è molto bella, ha 27 anni, è nel pieno della sua giovinezza, è sensuale, piace molto agli uomini, però ha quella bellezza rassicurante che piace anche alle donne, cioè le donne la vedevano come una potenziale amica e non come una rivale, e questo è molto importante. Insomma, nella storia dello spettacolo ci sono molte donne sexy ma amiche che sono arrivate molto prima e molto più in alto di altre donne con la faccia da quella che ti ruba il marito, insomma. Ecco, le donne italiane non si sentirono minacciate da lei, riuscì a mettere d'accordo un po' tutti. La canzone Ma che musica maestro ha un successo strabiliante, arriva in vetta alle classifiche e nello stesso tempo salgono gli indici di gradimento e di ascolto. Allora non c'era l'Auditel perché i canali erano 1-2, però c'era l'indice di gradimento che era molto importante. Insomma, Raffaella viene consacrata come nuova stella dello spettacolo italiano e così la Rai decide di confermare la coppia di conduttori anche per l'anno successivo, Canzonissima 71. Lei è ancora al fianco di Corrado, il meraviglioso Corrado Mantoni, al quale lei ha sempre dedicato parole di grande affetto e di grande riconoscenza. Ecco un uomo che mi emoziona in un modo pazzesco. Mi emoziona perché guarda come tiene quella mano vicino al mio capo, guarda che senso di protezione. Mi prendeva molto in giro, ma mi prendeva in giro con due occhi pieni di tenerezza. Che compagno, io ho imparato tanto da lui. Non abbiamo mai avuto il benché minimo screzio di nulla, è perché, come posso dire, è vero, è un fatto di chimica, avevamo chimica. Poi le strade ci portano per cammini diversi, ma insomma è un uomo che mi ha insegnato a essere generosa con i compagni di lavoro, senso dell'umorismo che ce l'avevo già, ma insomma voglio dire con lui l'ho mantenuto, quello me l'ha insegnato mia madre quando sono nata, perché gli emiliani sai come sono fatti, no? E poi soprattutto, come posso dire, essere uniti per vincere una battaglia, non contro gli altri, ma la tua battaglia del tuo programma. È bellissimo questo. E quella Canzonissima del 71 ha successo almeno quanto l'edizione precedente, è un record per Raffaella, che arriva ai primi posti delle classifiche con tre pezzi. E il primo è Maga Maghella, Castellano e Pipolo, le confezionano una canzone che riesce a farla entrare anche nel cuore dei bambini. Mancavano i bambini e anche i bambini vengono conquistati da questa canzone con un meccanismo simile. Cioè Raffaella non è una mamma, ma può essere, come dire, la zia simpatica, l'amica di famiglia che piace ai bambini, emana questo senso materno. E poi c'è la sigla del programma Chissà se va, che è un brano ottimista, spensierato, adatto a un'Italia del post boom che stava per fare i conti con altri problemi. Ma avevo detto tre, sì, perché c'è un terzo pezzo destinato a entrare proprio nell'immaginario, nella leggenda. È una canzone che prende il nome da un ballo che viene inventato e lanciato da Raffaella nel corso della sesta puntata di Canzonissima 71. È una data chiave, diciamo, per la televisione ma anche per lei. Sabato 13 novembre lei presenta all'Italia il Tuca Tuca. Brano scritto da Gianni Boncompagni con Franco Pisano, musica del maestro Ormi, diventa un intrigante balletto ideato dal mitico, famoso coreografo Don Lurio. Lei balla il Tuca Tuca insieme a Enzo Paolo Turchi, che lo conoscete, il ballerino biondo, quello che dopo si è sposato con Carmen Russo, tanto per fare un po' di pettegolezzo tra noi. La Rai è sempre stata un po' bacchettona. All'inizio impone al regista Gino Landi delle inquadrature che tolgano qualsiasi dubbio sul fatto che i due, la Carrà e Enzo Paolo Turchi, si tocchino veramente. Vengono ripresi di tre quarti per fare vedere che in realtà neanche si sfiorano. Poi invece ci sarà un risvolto ironico, leggendario sul Tuca Tuca, ma ne parleremo dopo, perché la Rai e il Tuca Tuca hanno in serbo grandi sorprese per la nostra Raffaella. Il falco, il falco, il falco e il gabbiano. Raccontando la showwoman italiana più famosa nel mondo, una cantante, ballerina, attrice, produttrice, autrice televisiva, è presente nei palinsesti televisivi dagli anni 60 a oggi, insomma un'icona della musica, dell'intrattenimento, la regina della televisione, amatissima all'estero, specialmente nei paesi di lingua spagnola, 50 milioni di dischi venduti, 60 programmi televisivi, 10 dei quali abbinati alla Lotteria Italia, cioè il programma centrale, diciamo, del palinsesto invernale della Rai. E Raffaella Carrà, lei ha scritto pagine veramente significative della storia dello spettacolo di questo paese. E nel racconto della sua vita siamo arrivati a quel cruciale 13 novembre 71, serata, era un sabato, e nelle case di tutti gli italiani irrompe questo ballo, insomma un po' pruriginoso per quei tempi, la sesta puntata, e lei arriva e balla questo Tuca Tuca insieme a Enzo Paolo Turchi. È un ballo per l'epoca osé, piace moltissimo naturalmente, però viene giudicato un po' troppo spinto per il sabato sera, per le famiglie, ci sono i bambini davanti alla televisione, pensate a che differenza che c'è tra quell'Italia e quella di oggi. Comunque l'esibizione viene bloccata. Sentite cosa dice lei, che viene intervistata recentemente da Fabio Fazio al programma Che Tempo Che Fa, e quando spiega che poi avvenne un fatto che tutti gli italiani che erano ragazzi in quegli anni si ricordano perfettamente, cioè lo sdoganamento del Tuca Tuca avvenuto grazie a Alberto Sordi. L'avrete visto qualche volta almeno in una replica. Lui aveva insistito per ballare il Tuca Tuca con lei e in qualche modo aveva vestito questo ballo di una aura più spiritosa e aveva sdrammatizzato il tutto. Insomma, stiamo parlando di Alberto Sordi. Guardalo là, il Tuca Tuca. Alberto Sordi. Lui è stato colui che me l'ha fatto rifare, perché l'ho fatto una volta sola, me l'hanno tolto, sì. E poi quando è tornato lui mi ha detto: genio. Oh, vorrei ballare con te, com'è qua cosa? Ti ho detto: ma guarda, forse non ce lo fanno fare. Va là che con me lo fai adesso. Hai avuto ragione. Così il Tuca Tuca unisce la parte sensuale con la parte divertente e spiritosa di Alberto Sordi e diventa un fenomeno popolare nel 71, peraltro nel frattempo è il momento di tornare al suo primo amore, la recitazione. Recita in Arsenio Lupin accanto a Georges Descrières, è una fortunata serie televisiva francese dedicata al ladro gentiluomo, l'episodio era La donna dei due sorrisi, ma e continua la sua produzione discografica. Nel 74 arriva un altro programma televisivo che fu mitico in quegli anni, Mille Luci, perché lì vengono schierate le due grandi della musica, dello spettacolo italiano, assieme Raffaella Carrà e Mina, che conducono un programma assieme, insomma come se oggi Messi e Cristiano Ronaldo giocassero nella stessa squadra. Naturalmente nascono voci di rivalità tra le due prime donne, rivalità che loro hanno sempre smentito, pare che in realtà loro andassero molto d'accordo, che fosse stata proprio Mina, donna di grande intelligenza, a chiedere a Antonello Falqui di essere affiancata proprio da Raffaella nella conduzione. Tra l'altro questo praticamente è l'ultimo programma di Mina prima del suo ritiro dalle scene. Molti hanno pensato che la sigla finale, che si chiamava Non gioco più, fosse in qualche modo un velato messaggio d'addio ai teleschermi. E dopo Mille Luci c'è di nuovo Canzonissima, la terza Canzonissima. Siamo alla fine del 74, sono gli ultimi anni di Canzonissima, prima che gli anni di piombo, le Brigate Rosse, il punk spazzassero via un po' tutto quel mondo, tutta quella generazione. Poi arrivarono anche le TV private, insomma cambiò tutto. Ecco, quella Canzonissima era ancora uno degli ultimi meravigliosi canti del Cigno di quel tipo di televisione. Lei duetta con un altro mito della televisione italiana degli anni 60, Topo Gigio, canta Strapazzami di coccole, una delle canzoni per bambini di maggior successo di tutti i tempi, perché allora insomma i bambini non ascoltavano la trap, ascoltavano queste cose. E soprattutto in quella Canzonissima lei presenta un brano che farà veramente il giro del mondo, una canzone che ha venduto 10 milioni di copie, specialmente nella versione spagnola. Il brano famosissimo si chiama Rumore. Rumore, canzone peraltro diciamo vagamente protofemminista, perché è la canzone di una donna che lascia il compagno e dice ho deciso che facevo da me, insomma in qualche modo è uno spartiacque. Poi in realtà lei una sera da sola in casa sente un rumore, vorrebbe tornare indietro nel tempo perché da sola non si sente sicura, quindi qui si torna un attimo indietro. È Rumore perfetta per tutte le donne che da un lato vogliono emanciparsi ma dall'altro non sono ancora proprio agio, diciamo fuori dal ruolo tradizionale. Scelta vincente, peraltro il produttore era un altro mito della musica, soprattutto prodotta, che era Shel Shapiro, e peraltro quella cassa che sentite nella canzone in realtà era fatta con il dito di Shel Shapiro su un microfono, perché ancora non c'era la tecnologia adatta per riuscire a fare la cassa in quattro che facesse ballare. E tra il 75 e l'80 Raffaella Carrà parte all'attacco del mondo, e soprattutto del mondo di lingua spagnola, partendo ovviamente dalla Spagna. Peraltro lì le cose non sono cambiate neanche oggi, perché la sua popolarità in Spagna è stata in costante crescita, poi va anche in Germania, in Francia, in Inghilterra, in Olanda, in Belgio, e poi arriva in Sud America, dove diventa un vero e proprio fenomeno di esportazione della musica italiana nel mondo, e così può permettersi di togliersi un po' dalle scene, quindi questo dà anche enfasi al suo rientro in Italia nel 1981, Mille Milioni, primo esperimento di cooperazione televisiva internazionale, sono 5 speciali girati in 5 diverse capitali estere. Peraltro quello è anche un anno particolare per lei, perché durante la registrazione di questo programma, tenete conto che la relazione della Carrà con Buoncompagni è finita da molti anni, ecco, durante la registrazione di questo programma incontra un autore, allora ballerino, Sergio Iapino, che diventerà il suo compagno oltre che il suo regista, insomma un punto di riferimento privato e pubblico, diciamo, una relazione sentimentale durata una ventina d'anni, e peraltro invece c'è una relazione professionale che prosegue tuttora. È un periodo di super lavoro per lei, quello di cui stiamo parlando, anni 80, 82, 83, Sanremo, e poi una nuova forma di espressione artistica che in qualche modo dà il via a un tipo di intrattenimento, soprattutto dell'ora di pranzo, che in qualche modo dura ancora oggi, perché è il momento di Pronto Raffaella. Allora, andiamo avanti con i nostri quiz. I primi due quiz che vi ho fatto non erano poi tanto difficili, ma adesso qualche quiz un po' più difficile bisogna farlo, così il montepremi aumenta. Allora, Martin e Claudia, se mi volete portare questo contenitore, ecco, fuori dal microfono, perfetto, così. Pronto Raffaella, primo programma Rai della fascia oraria del mezzogiorno, programma importantissimo. Io ci andai e mi ricordo, insomma, che ero, quando mi dissero vai a Pronto Raffaella, era un ulteriore imprimatura alla mia carriera allora in costruzione. Ecco, era un programma importante. Gli italiani per la prima volta, insomma, mangiavano guardando delle cose in televisione che non fossero i cartoni animati o semplicemente i TG. Il programma fa sì che Raffaella riceva il prestigioso titolo di personaggio televisivo femminile europeo, premio consegnato dall'Associazione Europea TV Magazine, e nell'ambito dello spettacolo, insomma, è evidente che dovunque lei si muova, comunque si cimenti, lei ottiene un successo strepitoso. Una regina Mida, una showwoman che sa scegliere con cura anche i passi da compiere, è una bravissima stratega per quanto riguarda la sua carriera. Il Falco. Il gabbiano. Il gabbiano. Il gabbiano. E il successo stellare di Pronto Raffaella, il programma che in qualche modo ha fatto da apripista a tutti i programmi che sono seguiti, soprattutto in quella fascia oraria di mezzogiorno, da mezzogiorno alle due, questo successo procura alla nostra protagonista, Raffaella Carrà, un contratto con la Rai che scatena anche una controversia molto accesa, la prima del genere, ce ne sono ancora oggi. L'allora presidente del Consiglio, Bettino Craxi, definisce immorale e scandalosa la cifra che lei avrebbe guadagnato due anni di esclusiva, si parlò di 6 miliardi di lire di allora, quindi una cifra sicuramente astronomica, ma ben giustificata, insomma, dai rientri economici che la trasmissione provocava. Insomma, questo è un dibattito che dura ancora oggi. E difatti lei prosegue. Buonasera Raffaella, appunto, diventa anche un intrattenimento serale, 10 puntate in Italia, 5 a New York, duetti con Stevie Wonder, Sammy Davis Jr., Ginger Rogers, Joe Cocker, e poi arriva Domenica In. E poi c'è un breve passaggio in Fininvest, segnato subito da un ritorno alla Rai, dove prosegue con i programmi del sabato sera, programmi di grande successo. Per esempio viene ricordata un'edizione abbastanza importante di Fantastico 12, che aveva sostituito Canzonissimo, cioè il programma della sera, dei sabati sera invernali, era diventato Fantastico, e lì c'era Johnny Dorelli con lei, ma c'è soprattutto da consegnare agli annali della televisione una famosissima ospitata di Roberto Benigni. Ma che cosa? Ah, io il mio... Cosa ci avete voi donne che attira così l'uomo? Non lo so, ma... Me lo dovete dire, oramai sono giunto all'età, lo devo sapere. Cosa ci avete quella zona là? Me lo devi dire? No, perché ho... Giusto per saperlo, dice, c'è un trattore, un treno, no, l'autostrada no, Firenze Mare. Meno, la galleria meno. Del Monte Bianco. Fammi vedere, un secondo. Cosa vuoi vedere? Fammela vedere un secondo. Che cosa? Un attimo, stai. Ma è tutto abbottonato, non posso, è abbottonato. Dai. Ma guarda, senti. No. Giusto per vederla un attimo, non vorrei morire senza aver visto quell'affare là. Mai visto? Oh, voglio dire, qualche volta. Ah, di la verità. Ma giusto per vedere un secondo così, Come mai attira tanto l'uomo quell'azienda là? Insomma, lei sta alternando il suo lavoro di conduttrice di enorme successo nei programmi di punta della Rai al ruolo di cantante, perché ogni volta poi mette a segno dei colpi ben riusciti. Per esempio, nel 76 c'è una famosissima Far l'amore comincia tu, canzoni che non hanno mai smesso di avere successo, perché poi periodicamente vengono riproposte. Per esempio, nel 2011 Bob Sinclair, il DJ francese famosissimo, l'ha rimessa. Poi nel 2013 addirittura la canzone entra a far parte della colonna sonora del film Oscar di Paolo Sorrentino, La grande bellezza. E poi arriva un altro colpo d'ala grandissimo di Raffaella, la serie dei Caramba. Caramba che sorpresa, e poi Caramba che fortuna. E arriva a entrare nell'immaginario collettivo, perché per anni, si dice ancora oggi, tipo arriva l'amico che non pensavi ci fosse, tutti dicono la carambata, caramba che sorpresa, incontro inaspettato tra persone che non si vedono da tanto tempo. È una formula televisiva che sapeva solleticare il cuore, l'emotività degli italiani. E poi c'è anche una conduzione a un festival di Sanremo, la 51esima edizione del 2001. Non fu una delle edizioni di maggior successo, ma certo non per colpa sua. Lei entra comunque nel cuore della gente, il pubblico non l'abbandona, lei diventa anche una delle massime icone per la comunità gay. Lì lei è dichiaratamente la regina. Tiziano Ferro le dedica una canzone nel 2007, Raffaella è mia. Insomma, lei peraltro dichiara di essere molto felice di questa predilezione. Allora, tu mi vuoi dire che io piaccio ai gay? Me l'ha già chiesto anche un'altra volta. Bene, io non lo so perché sono l'icona. Io credo che siano delle persone con un grande bisogno di fantasia. Sentirti uguale, che per me sono assolutamente uguali, non ho preconcetti di nessun tipo. Come dire, io ho un feeling. Qualche volta nella vita si ha un feeling senza parlare, e questo evidentemente è nato, perché io non ho promosso nulla, sono stati loro che mi hanno scelti, e di conseguenza io li rispetto prima e li amo dopo. E la carriera di Raffaella non conosce soste, lei continua a pubblicare dischi, a fare concerti nel mondo ispanico, Spagna e Sud America. Lei è proprio una pop star, cioè riempie palasport, stadi, è una super pop star. Ma non dimentica l'Italia, per esempio si ripresenta come coach in diverse edizioni di The Voice of Italy, un talent show musicale di Rai 2. E poi nel novembre del 2018 pubblica un album doppio ogni volta che è Natale, 9 cover di canzoni natalizie e tutti i suoi successi intramontabili. Insomma, oggi abbiamo provato a raccontare uno dei più grandi personaggi dello spettacolo della musica italiana, un personaggio da esportazione, un vanto del nostro paese, una donna molto determinata, molto preparata, molto spiritosa, fedele al suo personaggio, con una pettinatura che praticamente non ha mai cambiato nella vita, pettinatura che la rende un'icona, che l'accompagna da molti decenni. Insomma, quella bambina che nel 50 si era affacciata a recitare è diventata prima una bellissima ragazza che ha turbato i sogni degli italiani e poi una donna di grande classe, ripeto, uno dei vanti dell'Italia all'estero. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, venite a trovarci sul nostro sito, sui miei, sui nostri social. Da Trieste in giù vi abbraccio. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.